Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto e l'augurio di una buona serata. Ci ritroviamo al nostro appuntamento mensile attorno alla parola di Dio per cercare di far sì che dalle pagine della scrittura il messaggio della salvezza intercetti la nostra vita. Ecco, nel nostro percorso stiamo riflettendo sugli Atti degli Apostoli e siamo arrivati al capitolo ottavo. Siamo in un momento molto delicato della storia delle origini cristiane, quando la comunità cristiana di Gerusalemme sta aprendo, guidata dallo Spirito Santo più che dal suo desiderio, è proprio lo Spirito Santo che scandisce il passo, agli orizzonti del mondo, sta uscendo oltre quella che è la cornice sicura e rassicurante della identità ebraica. Ecco, prima di leggere insieme il testo degli Atti degli Apostoli e commentarlo, vi chiedo di pregare insieme a me l'assistenza dello Spirito Santo e la presenza di Maria, perché questo momento possa essere un momento di grazia per tutti noi. Veniamo tutti da giornate intense, probabilmente da giornate caratterizzate da tante cose, chi ha avuto il lavoro, chi gli incontri, chi magari ha vissuto momenti delicati anche di sofferenza o di solitudine. Ecco, proviamo a fare in questo momento spazio nella nostra mente e nel nostro cuore perché la parola di Dio possa prendere dimora e possa in qualche modo succedere anche per noi quello che il Vangelo di oggi ci raccontava nel miracolo operato da Gesù. Ecco, in quel momento in cui Gesù incontra il centurione, ci diceva il Vangelo di oggi, il centurione credette alla parola del Signore e si mise in cammino. E questo opera miracoli. Ecco, cerchiamo anche noi in questa ora insieme, ora e mezza insieme, di vivere questa esperienza, che lo Spirito ci aiuti a credere alla parola del Signore per poi rimetterci in cammino con un atteggiamento rinnovato. Quindi lo Spirito possa davvero agire nella nostra mente, nel nostro cuore e sulle nostre parole. Come sapete, il nostro appuntamento del terzo lunedì del mese si suddivide sempre in due momenti, cioè il primo momento che è quello della condivisione da parte mia, quindi la lettura commentata del testo degli Atti degli Apostoli, e poi c'è la seconda parte che è costituita dei vostri interventi sotto forma ora di domande, ora di brevi riflessioni. E come sempre amiamo dire, le due parti sono complementari. I vostri interrogativi, i vostri interventi sono altrettanto preziosi quanto la prima parte, la parte più, se volete, di riflessione, di lezione dettata, proprio perché permettono di cogliere degli scorci e delle sfumature che altrimenti andrebbero perduti. Passiamo ora al testo. Quanti sono nella possibilità di farlo? Chiedo di prendere in mano un'edizione della Bibbia in modo da poter seguire le pagine del Nuovo e dell'Antico Testamento che hanno a che vedere con il testo di oggi. Il brano su cui oggi sosteremo è tratto dal capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, dai versetti 26 fino al versetto 40, versetti 26-40. La volta scorsa abbiamo visto come lo Spirito, dopo l'ondata della persecuzione nella prima comunità cristiana causata dal martirio di Stefano, dalla testimonianza di Stefano, ha cominciato a uscire da Gerusalemme. Questa uscita da Gerusalemme ha trovato prima un terreno prezioso nel mondo dei Samaritani, e la volta scorsa ci siamo soffermati proprio su questo aspetto, ma subito dopo, oltre i Samaritani, sembra che la parola di Dio voglia essere seminata altrove. Ed è proprio il brano su cui ci soffermeremo oggi. Per la prima volta, vedremo, le porte della comunità cristiana si aprono al mondo pagano. Ma leggiamo direttamente il testo nella sua prima parte, vale a dire i versetti 26-29, per ascoltare direttamente da Luca come continua la narrazione. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Ecco, la scena è questa. Pietro e Giovanni avevano appena lasciato la comunità della Samaria dove si trovava Filippo e non hanno ancora avuto il tempo di interiorizzare quanto è successo. Teniamo presente che accogliere i samaritani nella comunità cristiana di Gerusalemme non era un fatto scontato, era un fatto che poteva generare qualche difficoltà a Pietro e Giovanni nel momento in cui tornavano a Gerusalemme. Perché, come spiegavamo la volta scorsa, i samaritani rappresentavano una serie di fratelli di serie B rispetto a quello che era l'ebreo doc, addirittura erano da tenere lontani. Chi viaggiava dalla Galilea alla Giudea evitava di passare dal territorio dei samaritani perché c'erano delle profonde tensioni tra le due stirpi, tensioni di cui abbiamo testimonianza anche nel Nuovo Testamento. Quindi Pietro e Giovanni, dopo aver fatto una visita di discernimento nelle comunità di Samaria, le accolgono all'interno della comunità cristiana, poi rientrano a Gerusalemme evangelizzando, dice il testo, altre città della Samaria. Quindi si sono appena confrontati con un passo certamente non facile ed ecco che lo Spirito già spinge oltre. E spinge oltre servendosi sempre della stessa persona, Filippo. Filippo non è uno dei dodici, ma è uno dei sette, uno dei cosiddetti diaconi che si dedica tal punto all'annuncio della parola di Dio da diventare una figura determinante. Noi dobbiamo a Filippo l'apertura delle porte della comunità cristiana, prima alla Samaria e poi al mondo pagano. Prima quindi di Pietro, prima ancora di Paolo, noi abbiamo come protagonista di quest'opera di mediazione il diacono Filippo. Lo Spirito in persona afferra Filippo e gli indica la via da percorrere e dal testo che abbiamo letto notiamo che l'indicazione dello Spirito si presenta subito misteriosa, strana. Ci sono almeno tre elementi che sono elementi di stranezza. Primo elemento: alzati e va verso mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Bene, andare sulla strada che scendeva da Gerusalemme a Gaza non era una cosa, come dire, tanto desiderabile. Perché? Perché era la strada che scendeva in Egitto. Gaza era la prima città che apparteneva al grande impero, al grande regno dell'Egitto nel primo secolo. Quindi quando anche ascoltiamo il racconto di Matteo dove c'è la fuga della Sacra Famiglia in Egitto, non dobbiamo pensare che siano andati fino al Nilo, bastava scendere fino a Gaza, che era la prima città di questo grande regno che apparteneva appunto all'Egitto. Quindi andare in quella strada, nella direzione che scendeva da Gerusalemme a Gaza, poneva di fronte a Filippo e quindi anche al lettore che ascoltava questo testo l'ombra dell'impero che aveva reso schiavo il popolo di Israele. Diversi profeti, tra l'altro, avevano più volte raccomandato nei loro oracoli, nelle loro profezie, avevano più volte raccomandato a Israele di non scendere nuovamente in Egitto, perché quello rappresentava il luogo della schiavitù, il regno delle ombre. Pensiamo ad esempio ai grandi oracoli tenuti da Geremia. Geremia aveva più volte scongiurato il popolo di non cercare mai l'alleanza con l'Egitto, perché era come voltare le spalle al Signore e tornare in una situazione di schiavitù. E la cosa paradossale è che alla fine della sua esperienza Geremia sarà fatto prigioniero e portato a forza nella terra d'Egitto, nella terra contro la quale lui aveva profetizzato, nel regno delle ombre, e lì perderemo le sue tracce. Quindi il fatto che lo Spirito prenda Filippo e lo porta sulla strada che da Gerusalemme scende verso Gaza pone qualche interrogativo nel lettore, come se lo Spirito voglia che desideri che i suoi messaggeri non abbandonino questa fetta di popolo che era considerato in margini. Come i samaritani sono stati a un certo punto inclusi nella comunità cristiana, così anche lo scorcio che si apre davanti al lettore, davanti a Filippo, è quello di includere all'interno della comunità anche coloro che sono considerati lontani, il regno delle ombre. Secondo aspetto misterioso di questo brano è il fatto che lo Spirito, rivolgendosi a Filippo, precisa che la strada è deserta. Ora, che senso ha mettersi in cammino su una strada deserta? Perché la strada è deserta? Quindi non solo è una strada che scende verso l'Egitto, ma è una strada che sembra essere sterile in se stessa, non c'è possibilità di incontro. E poi aggiunge un altro elemento: egli si alzò, si mise in cammino, quindi crede alla parola e si mette in cammino, proprio come ci diceva il Vangelo della liturgia del giorno, quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando. Ecco allora l'incontro. Su questa strada, che apparentemente è deserta, evoca una discesa verso il regno delle ombre, quindi una strada che sembra non promettere nulla di buono, ecco l'incontro. Ma l'incontro, anche qui, è un incontro misterioso, perché avviene con una persona in origine pagana, una persona che è definita con un elemento importante, è un eunuco. E la legge nei confronti degli eunuchi, basta leggere il capitolo 23 del libro del Deuteronomio al versetto 2, era molto radicale: gli eunuchi non si potevano unire al popolo di Dio. Qua tuttavia ci viene detto che questo eunuco in origine pagano è sensibile alla legge ebraica, tanto vero che sta tornando da Gerusalemme dove era venuto per il culto. E allora gli studiosi giustamente si chiedono, ma come mai un eunuco è salito a Gerusalemme, uno che tra l'altro viene dalla regina Candace, dalla terra di Etiopia? Chi è questo pagano? Il pagano era probabilmente un timorato di Dio. Noi sappiamo dagli usi e dalle tradizioni del primo secolo che gli eunuchi potevano entrare, accostarsi all'ebraismo, al massimo livello a cui potevano arrivare era quello dei timorati di Dio. I timorati di Dio erano coloro che si affacciavano al mondo dell'ebraismo, vivevano secondo alcune norme della Torah, ma non potevano accedere al grado successivo, cioè in questo caso gli eunuchi. Gli altri timorati di Dio prima o poi diventavano proseliti. In questo caso invece l'eunuco deve rimanere timorato di Dio, cioè non può accedere al percorso che l'avrebbe fatto diventare un ebreo doc. Quindi probabilmente abbiamo a che fare con un pagano che è sensibile al mondo ebraico e che cerca di vivere nella sua vita personale alcuni dei precetti più importanti. Non può però, a motivo della sua condizione, non può diventare un ebreo a tutti gli effetti. Chi erano gli eunuchi? Anche su questo aspetto gli studiosi si sono molto interrogati. Alcuni ritengono che il termine sia semplicemente un modo come un altro per dire che questo era al servizio della regina Candace. Altri invece sottolineano che l'eunuco era anche in questo caso, tanto più che era un po' una sorta di economo generale, un amministratore, l'amministratore di tutti i beni della regina, era un evirato, un uomo evirato che veniva posto accanto alla regina proprio per custodirla. E questo dava la certezza al re che l'amministratore non avrebbe mai preso il suo posto, non gli avrebbe mai portato via la moglie, proprio perché era un uomo che era stato evirato e quindi era un pochino il custode, per certi aspetti, dell'harem del re. Il termine stesso che indica eunuco deriva da due parole greche, eunè che significa letto ed eco che significa avere, che deriva dal verbo avere, quindi erano i custodi del letto, coloro che dovevano tutelare l'harem di personalità importanti. Il termine, tra l'altro, è un termine che viene utilizzato anche nell'ambito della botanica greca per indicare i frutti senza nocciolo, proprio per indicare che queste persone sono incapaci di generare a loro volta altra vita, cioè erano persone infeconde. Sovente questo succedeva perché c'era un intervento esterno umano. Ora, la tradizione ebraica riteneva che queste persone non potevano avere accesso alla fede ebraica in pienezza. Quindi, quello che ci sta dicendo l'inizio di questo brano ha un triplice punto di mistero. Il primo è la strada che scende verso il regno delle ombre. Il secondo è il fatto che questa strada sia deserta, il terzo è l'incontro con un eunuco. Tre elementi che sembrano non promettere nulla di bene, eppure tutti e tre questi elementi diventeranno dei trampolini di lancio estremamente fecondi per la comunità cristiana. E qua abbiamo già il primo insegnamento forte. Per il Signore non c'è nulla che possa ostacolare la sua azione di salvezza, quando le disposizioni dell'uomo sono disposizioni positive. Nessuno può sentirsi escluso dalla sua grazia, anzi, ciò che sembra più lontano, di fatto diventa la via maestra che apre la porta a tutto il mondo pagano. Questo è quello che stiamo meditando, stiamo contemplando in questa pagina del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, è una svolta decisiva che poi Paolo prima e Pietro poi imboccheranno con decisione, ma colui che apre le porte è lo Spirito attraverso la mediazione di Filippo. Prima di continuare nella lettura e nel commento del nostro racconto, lasciamo ora un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi possa rileggere brevemente questi 5 versetti, dopodiché continuiamo e vediamo come si snoda il resto del racconto lucano. Bene, dopo aver riflettuto su gli inizi di questo brano, di questo episodio, dove lo Spirito prende Filippo e lo manda nella via che scende verso l'Egitto, in una strada deserta, all'incontro con un eunuco, sentiamo come il racconto continua. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» Egli rispose: «E come potrei capire se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: «Come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. La sua discendenza, chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita?» Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo, di se stesso o di qualcun altro?» Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura annunciò a lui Gesù. Allora notiamo che questo brano è molto interessante perché in qualche modo ci traccia quella che è una possibile via per una prima evangelizzazione. Una possibile via per una prima evangelizzazione che emerge dall'indicazione dello Spirito stesso, cioè è lo Spirito che diventa maestro di Filippo, quando gli dice va avanti, accostati a quel carro, cioè il primo atteggiamento per portare l'annuncio di Cristo è sempre quello di farci compagni di viaggio. Filippo non entra in scena con la bacchetta del maestro di scuola. Entra in scena con discrezione, lui da un lato obbedisce all'azione dello Spirito che lo porta su una strada che non aveva prevista e poi si fa compagno di viaggio, ma anche qua l'essere compagno di viaggio non è una modalità, come dire, troppo invadente. Filippo corse avanti e udito che leggeva il profeta Isaia gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quindi, primo passo, farsi compagni di viaggio. Secondo passo, sollevare la domanda, sollevare l'interrogativo. Non è dare risposte, sollevare la domanda. È diverso. A volte nel nostro modo di parlare del Signore, di portare l'annuncio del Vangelo, dei valori cristiani, noi abbiamo la tendenza a parlare molto, no? O a dare delle risposte a domande che nessuno ha fatto. Ecco, in questo caso invece l'azione di Filippo è molto delicata. Lui si pone accanto all'eunuco, cammina insieme a lui e poi solleva una domanda, cerca di sollevare un interrogativo. E qui notate, il testo continua dicendo, egli rispose, e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Filippo non sale, non siede accanto a lui senza essere invitato. Quindi il terzo passo, accogliere l'invito, trasformare l'invito in condivisione. Ma tutto avviene con una certa gradualità. Noi qua siamo di fronte ad un brano che evoca un altro episodio lucano, prezioso, che è l'episodio dei discepoli di Emmaus. Se voi ricordate la pagina dei discepoli di Emmaus, noterete che lo stesso Signore, lo stesso risorto, utilizza questa pedagogia nell'evangelizzare. Prima è compagno di viaggio silenzioso, poi solleva la domanda di che cosa state parlando lungo il cammino, quindi si fa invitare, resta con noi perché si fa sera. Ora, Filippo ha pienamente interiorizzato la lezione di Emmaus e la rivive con altri, diventando a sua volta trasmettitore del Cristo. Quindi siede accanto a lui e accetta l'invito a salire accanto all'eunuco e si mette in ascolto di quello che l'eunuco sta leggendo. E qui è interessante perché l'eunuco sta leggendo Isaia. Allora la domanda che viene spontanea è: ma com'è possibile che un uomo come l'amministratore di tutti i beni della regina di Antiochia, avendo davanti a sé le scritture ebraiche, abbia scelto proprio Isaia? Perché Isaia? Perché non è partito dalla Torah, che era comunque considerato come il nucleo dei libri più forti, più significativi della tradizione ebraica? Perché non ha iniziato dalla Genesi, dall'Esodo, dal Deuteronomio? Perché Isaia? E qua gli studiosi fanno notare che Isaia, tra tutti i testi antico-testamentari, è il profeta che è più vicino alla tipologia di lettore, è il più vicino agli eunuchi, è l'unico profeta che mette tra i suoi oracoli, tra le sue profezie, una profezia a favore di questa tipologia di persone. E ve la leggo, è un testo che potete seguire al capitolo 56 del libro di Isaia, i versetti da 1 a 5, dove Isaia così annuncia, così promette: la mia salvezza è prossima a venire e la mia giustizia è sul punto di rivelarsi. non dica lo straniero che si è unito al Signore, notate, lo straniero che si è unito al Signore, qui c'è un eunuco che è andato a Gerusalemme per il culto e sta tornando indietro, quindi non dica lo straniero che si è unito al Signore, il Signore mi separerà dal suo popolo, e non dica l'eunuco, io sono un albero secco, poiché così parla il Signore. Agli eunuchi che osservano i miei sabati, prediligono quello che è di mio gusto e tengono fermamente alla mia alleanza, darò loro nella mia casa un nome e dentro le mie mura un posto migliore di quello dato ai figli e alle figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai soppresso. Guardate che qui Isaia, con questa profezia, ha usato molto, perché praticamente sconfessava quanto diceva un libro della Torah, quanto diceva il libro del Deuteronomio al capitolo 23, versetto 2. E qua Isaia sconfessa quel brano dicendo no, se un eunuco aderisce alla legge del Signore, questo può avere un nome e un posto migliore di quello dato ai figli e alle figlie, un nome eterno che non sarà mai soppresso. E badate bene, nella storia della salvezza, questo succede al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, perché questo eunuco diretto in Etiopia diventa colui che apre la porta a tutto il mondo pagano, permettendo a intere generazioni di persone di aderire, di entrare in quella che sarà la comunità cristiana che va componendosi. Tra l'altro, a questa profezia di Isaia è associato anche un luogo molto significativo a Gerusalemme, per quanti di voi hanno avuto il dono, la possibilità di andare in pellegrinaggio in Terra Santa, ed è il luogo dello Yad Vashem, il monte dei giusti, no? Dove vengono ricordati tutti coloro che, pur non essendo ebrei, hanno compiuto non solo atti di bontà nei confronti degli ebrei nella pagina tristissima della Shoah, ma anche si sono dati da fare per custodire o promuovere quella che è la tradizione ebraica. Ecco, il nome di quel monte, Yad Vashem, deriva proprio da questi versetti di Isaia. Yad indica il posto, è quello che qui viene chiamato un posto migliore, e Shem indica il nome, quindi Yad Vashem indica il posto e il nome, ciò che viene assicurato a quegli eunuchi che osservano la legge e il sabato. Ora, il brano di Isaia che lui sta leggendo, che questo uomo sta leggendo, questo amministratore sta leggendo, è un testo che parla del servo sofferente, però attenzione, l'eunuco poteva leggerlo in riferimento a sé, quando leggeva nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, poteva benissimo applicarlo a sé, l'eunuchia era un'umiliazione per lui, il giudizio gli è stato negato, non ha potuto scegliere. La sua discendenza chi potrà descriverla? Gli eunuchi non avevano discendenza, non potevano generare, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita, la sua fonte di vita gli è stata recisa a motivo di un intervento esterno. Quindi ciò che nella lettura dell'eunuco poteva rimanere chiuso in se stesso, Filippo interviene con la sua guida, la sua interpretazione e schiude questa lettura a un orizzonte nuovo. Colui che ha vissuto tutto questo è lo stesso Cristo, nel suo mistero di morte, passione, morte e umiliazione. Quindi, riletta in Cristo, la passione, la morte, l'umiliazione possono diventare gli orizzonti di una vita nuova. Pensate a come questo poteva trasfigurare letteralmente la vita di un uomo come questo amministratore della regina di Etiopia. Quindi rivediamo un attimo queste tappe della pedagogia dell'evangelizzazione. Prima di tutto Filippo si pone accanto al carro, quindi si fa compagno di viaggio. In un secondo momento suscita l'interrogativo della domanda, in un terzo momento accetta l'invito a salire su quel carro e a condividere l'esperienza di quest'uomo, e l'ultimo elemento, l'ultima tappa, diventa guida. Come posso capire se non c'è nessuno che mi guida? Diventa ermeneuta di quelle scritture. E qui è interessante ancora il parallelismo con il brano di Emmaus. Nel brano di Emmaus, per capire Gesù, c'è il rimando ai discepoli a tutte le scritture antiche. Qui invece viene l'esatto contrario. Per capire le scritture antiche viene rimandato l'amministratore della regina Candace, viene rimandato alla figura di Gesù. E questo è un messaggio molto bello, perché ci fa capire che, stando alle pagine del Nuovo Testamento, noi non possiamo capire il mistero pasquale, non possiamo capire la nostra fede senza un dialogo continuo tra Antico e Nuovo Testamento. L'intreccio tra i due testamenti è necessario per capire il disegno della salvezza. Il Nuovo Testamento si spiega alla luce dell'Antico, l'Antico si illumina alla luce del Nuovo. C'è un intreccio necessario e vitale. Ecco, lasciamo ancora un breve stacco musicale prima di affrontare l'ultima parte del brano, in modo che ancora una volta avete possibilità di ripercorrere questi versetti e poi continuare nella spiegazione. Ecco, dopo aver ascoltato come Filippo spiega all'amministratore della regina Candace tutto il mistero di Cristo, il racconto continua. Proseguendo lungo la strada, scrive Luca negli Atti, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: «Ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato?» Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Allora, in questo testo vediamo un po' il finale del brano. Il finale del brano è altrettanto interessante quanto i brani precedenti, perché questo amministratore è un amministratore che, come dire, è furbo, sa il fatto suo. Una volta che Filippo gli fa la catechesi su Gesù, dimostrando che la morte, l'umiliazione, la passione sono fonte di vita, e l'eunuco lo mette subito alla prova e gli dice: bene, io non posso entrare in quella che è la pienezza della fede ebraica, perché stando al Deuteronomio la mia condizione me lo impedisce. Ora, stando a quello che tu mi dici, in Gesù questi ostacoli non ci sono più, quindi qui c'è dell'acqua, che cosa mi impedisce che io sia battezzato? Cioè, stando a quella che è la catechesi, cioè la spiegazione del brano che tu mi hai dato, allora permettimi di diventare anch'io discepolo di Cristo. E Filippo intuisce fino in fondo la cosa, fece fermare il carro, scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quindi la parola che scende nella vita di quest'uomo diventa subito una parola che agisce e trasfigura, e ciò che è altrettanto interessante, quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. È la stessa cosa che succede anche qui a Emmaus: nel momento dello spezzare il pane si aprirono gli occhi, lo riconobbero il maestro come il risorto, ma poi egli sparisce, scompare dalla loro vista. La stessa cosa succede qui. Dopo l'illuminazione che avviene attraverso l'esperienza del battesimo, Filippo viene rapito, viene portato via e l'eunuco non lo vede più. Questo ha un duplice significato. Prima di tutto pone al centro della scena la figura stessa di Cristo. Il battesimo è l'unione con Cristo. Una volta che uno è unito a Cristo non ha bisogno di una guida. La guida è necessaria finché si è condotti al Maestro, ma una volta che si è nelle mani del Maestro, la guida che era impersonata da Filippo non ci deve più essere. Nello stesso tempo sembra quasi che lo spirito voglia tutelare in qualche modo un'esperienza di questo tipo, la voglia tutelare lui. Filippo, se fosse stato presente, forse avrebbe rischiato di condizionare quell'uomo con le sue indicazioni, con le sue raccomandazioni, con le sue precisazioni. Tutto questo è impossibile, perché è lo Spirito Santo che decide come devono andare le cose e quindi come lo ha portato sulla scena, così lo porta via dalla scena. E Filippo si ritrova in tutt'altra dimensione. Tra l'altro la strada che percorre Filippo lo porterà a Cesarea, dove al capitolo 10 avverrà la continuazione, possiamo dire, di questo episodio. Al capitolo 10 avverrà l'incontro proprio a Cesarea tra Pietro e Cornelio, il centurione, e in quel caso non sarà più una sola persona, ma un'intera famiglia pagana a entrare nell'esperienza della comunità cristiana. Quindi possiamo dire le porte della comunità cristiana non solo si apriranno, ma si spalancheranno. Ecco allora che in questo episodio viene in qualche modo a compiersi il progetto, l'orizzonte che era stato annunciato al versetto 8 del capitolo primo degli Atti degli Apostoli, dove Gesù, prima di salire al cielo, dice ai suoi discepoli: voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino ai confini della terra. I primi 8 capitoli degli Atti degli Apostoli non fanno altro che sviluppare questo versetto, il versetto 8 del capitolo primo. La prima parte è dedicata a Gerusalemme, la seconda parte alla Giudea, poi c'è l'apertura al mondo dei Samaritani che abbiamo commentato la volta scorsa e poi fino ai confini della terra. L'Etiopia era considerato un orizzonte fino ai confini della terra. Cosa è successo poi in Etiopia, cioè cosa è successo poi con questo eunuco? Non lo sappiamo, il testo volutamente non lo dice, però ci fa capire che il diffondersi del seme della parola di Dio è un diffondersi che supera, va oltre quelli che sono i progetti e le prospettive umane. Il vero protagonista è lo Spirito Santo. E la caratteristica che l'azione dello Spirito Santo è viva e dinamica la troviamo in una piccola espressione, in un piccolo inciso, quando ci viene detto che l'eunuco, pieno di gioia, proseguiva la sua strada, quella pienezza di gioia, lo abbiamo già avuto modo di sottolineare, no? La caratteristica dell'opera lucana, Vangelo e Atti degli Apostoli nel suo insieme, è sempre la dimensione della gioia. L'esperienza cristiana nel Vangelo di Luca inizia con l'invito alla gioia, l'annuncio dell'angelo a Maria, quando l'angelo entra da Maria, il primo imperativo, possiamo dire, dell'esperienza cristiana è proprio quel gioisci, quel caire che accompagna gli inizi della storia cristiana. La prima comunità cristiana viene identificata come una comunità gioiosa che condivide nella gioia il pane dell'Eucaristia ed ora, lo notiamo, la prima caratteristica di coloro che ricevono il battesimo è la pienezza della gioia. Un tema questo che è molto caro anche all'Apostolo Paolo, quando nella lettera ai Galati dovrà identificare quello che è il frutto dello Spirito, Il frutto dello Spirito è, dice Paolo, l'amore, che poi si declina in tante caratteristiche, la prima delle quali è proprio la gioia. Quindi questo è un elemento forte. Bene, da questo brano, che noi abbiamo scandito in tre parti, nella prima parte abbiamo voluto sottolineare dove il Signore agisce e abbiamo scoperto insieme che il Signore non agisce solo nei luoghi santi, nei luoghi tranquilli, nei luoghi pacifici, ma agisce anche nelle strade che scendono verso il regno delle ombre, la strada che scendeva da Gerusalemme a Gaza, nelle strade deserte, nelle strade dove passa qualcuno che viene considerato l'ultimo della storia, l'ultimo della società. Quindi questo era il messaggio della prima parte. Poi siamo andati avanti, abbiamo visto come nell'incontro tra Filippo e l'eunuco ci viene insegnata una pedagogia dell'evangelizzazione, una sorta di pedagogia anche della catechesi, dell'annuncio, una pedagogia che passa da quello che il Signore stesso ha insegnato ai discepoli di Emmaus: prima camminare accanto, poi porre le domande giuste, poi lasciarsi invitare e sedere accanto alle persone, per poi, come dire, cercare di offrire una chiave di lettura attraverso la persona di Gesù. E la persona di Gesù è colei che permette in qualche modo di interpellare la vita dei singoli. Siamo quindi passati al terzo momento, il terzo momento che dove sembra che gli Atti degli Apostoli vogliano porre al centro l'azione dello Spirito Santo e l'azione di Gesù, facendo notare come l'evangelizzatore, il catechista, il formatore passa in secondo piano e lo Spirito può benissimo fare a meno di lui. Quello che viene chiesto alla figura del formatore, della guida, è di essere attento alla voce dello Spirito e di sapersi far da parte quanto prima, perché la persona possa camminare con le sue gambe e restare aperta al dono dello Spirito. Allora, al termine di questa prima parte della nostra riflessione, proviamo a chiederci: quali sono le strade deserte di oggi che il Signore ci chiama ad abitare? Noi in qualche modo siamo credenti, ci nutriamo della sua parola e proprio per questo siamo chiamati ad essere testimoni suoi. Quali sono le strade deserte sulle quali il Signore ci invia? Quali sono gli eunuchi di oggi a cui il Signore ci invia? Quali sono le domande di queste persone che siamo chiamati a suscitare, ad ascoltare? E poi, secondo aspetto, l'invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Oggi abbiamo bisogno di persone capaci di salire sul carro e di sedere accanto a noi. Ne hanno bisogno le comunità cristiane, ne hanno bisogno i fratelli e le sorelle, ne hanno bisogno a volte i catechisti, cioè spesso noi all'interno di una comunità cristiana o di una comunità religiosa siamo tante isole vaganti. Ecco, il Signore ha pensato fin dall'inizio l'opera dell'annuncio come un'opera di comunione, i discepoli li mandava due a due, i primi cristiani sono sempre accompagnati da una guida o da colui che si cammina accanto a loro. Pensate, l'annuncio stesso di Paolo non è un annuncio in solitario. Paolo ha attorno a sé un team di collaboratori che agiscono sempre, partono sempre con lui, da Tito a Timoteo, Aquila e Priscilla e molti altri, persone che condividono con lui l'annuncio. Ecco, lo stesso avviene, deve avvenire per noi oggi. Nessuno può essere annunciatore solitario dei misteri del regno, perché il primo elemento che comunica il mistero è la comunione. Allora, lasciamo che questa pagina ci interpelli. Ed ora lascio a voi la parola, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Dopo lo stacco musicale che adesso vivremo, vi sarà dato dalla regia il numero per continuare il nostro confronto. Invito ciascuno di voi a fare un intervento, una domanda, ovviamente possibilmente legata al tema, per continuare la nostra riflessione su questo brano, che spero in qualche modo di averlo lasciato trasparire, è veramente ricco per la nostra identità di cristiani e di testimoni dell'amore di Dio. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ora sono io che mi metto nell'ascolto di quanto voi mi direte o condividerete. Pronto, buonasera, con chi parlo? Parla con Paola e parlo e telefono da Bracciano. Ascolti, la ringrazio prima di tutto di questa bella spiegazione. Volevo chiedere questo, no? La direzione spirituale in questa situazione dove si pone? Cioè, Filippo, lo Spirito Santo ha abbandonato, diciamo così, ha preso la direzione di questo eunuco, no? Noi con il battesimo siamo abbandonati allo Spirito Santo, cioè siamo sotto la direzione dello Spirito Santo, no? La direzione spirituale attraverso un sacerdote, non lo so, accompagna l'azione dello Spirito Santo oppure può essere un intralcio? L'ascolto per radio e la ringrazio. La ringrazio Paola per questa domanda perché è una domanda preziosa. Effettivamente noi possiamo cogliere sia in questo brano come nel brano dei discepoli di Emmaus che sta effettivamente sullo sfondo di Atti 8 qualche indicazione legata alla direzione spirituale. Allora, il primo aspetto è la necessità di una guida. La direzione spirituale è un mezzo preziosissimo per la nostra crescita nella fede e sarebbe opportuno per chi vuole fare un cammino serio nella fede avere sempre una persona di riferimento. E emerge dal versetto 31 di questo racconto. Egli rispose: come potrei capire se nessuno mi guida? C'è sempre un elemento essenziale che è quello del discernimento, soprattutto in alcuni momenti decisivi della vita, che uno non può fare da solo. Quindi questo è un elemento che emerge qui, come emerge nel brano dei discepoli di Emmaus, perché da soli, quei due discepoli di Emmaus, cercavano di leggere lucciole per lanterne e rischiavano di lasciarsi afferrare da quello che è il demone più brutto dell'inferno, cioè lo scoraggiamento. Quindi il fatto di avere qualcuno che camminava accanto a loro senza essere invadente, senza invadere troppo, favorisce questa cosa. C'è però anche l'altro lato della medaglia. Quello che dicono questi testi è che il direttore spirituale, la guida spirituale, ha come l'obiettivo primo quello di condurre a Cristo, cioè non deve diventare la sostituzione dell'azione di Dio, ma deve essere colui che conduce a comprendere l'azione di Dio. Ecco perché a un certo punto Filippo viene rapito e portato via, perché il rischio qual è? Il rischio è quello di, quando uno ha delle domande, ha dei problemi, di volere la risposta pronta dal direttore spirituale. Il compito del direttore spirituale, penso di non sbagliare nel dire questo, non è quello di dare risposte, ma di orientare a colui che è la fonte della risposta, di dare un orientamento, ma la risposta ognuno la deve poi trovare da sé nel confronto con quel maestro e quello spirito che sono i veri protagonisti del cammino spirituale, cioè è una sorta di azione che favorisce il confronto con Cristo. Ecco, nella tradizione, qua faccio riferimento soprattutto alla tradizione mia, della mia congregazione, io sono paolino, appartengo alla congregazione fondata da Don Giacomo Alberione, no? E lui ci ha lasciato una, come figura mariana di riferimento, la figura di Maria Regina degli Apostoli. E lui sottolineò più volte che il primo compito di Maria Regina degli Apostoli è quello di guidare i discepoli perché potessero essere condotti a Cristo e formati alla sua scuola, cioè il compito di Maria non è quella di dire lei le cose, ma di portare a Cristo e formare, lasciare che il Cristo poi si formasse dentro gli apostoli. Così vale per il direttore spirituale. Il direttore spirituale non si sostituisce all'azione dello spirito o all'azione del maestro, ma deve portare a lui. Ecco allora il significato di questo Filippo che viene portato via. Oppure in un altro episodio, quello che vedremo al capitolo 10, Pietro dopo il battesimo di Cornelio si mette a fare un lungo discorso che però lo spirito interrompe e scende direttamente su Cornelio, quasi a dire attenzione perché ti stai sostituendo a quella che è la volontà di Dio. Quindi grazie Paola per questa sua domanda perché ha toccato un argomento delicato. Pronto? Pronto, buonasera padre. Buonasera, io sono Gennaro, con chi parlo? Sono Gennaro di Cappella Bacoli, della diocesi di Pozzuoli. Bene, bene, mi dica Gennaro. Sì, allora diciamo che anch'io facendo un cammino sono arrivato a diventare eunuco per il regno di Dio, per il regno dei cieli. Però la mia guida spirituale mi aveva dato anche un'altra indicazione, cioè di formarmi una famiglia, e allora sono andato un attimo in difficoltà. E quindi, però parlando con lui, mi ha detto di comunque continuare un cammino sempre vicino a Cristo, e che comunque di rimanere, in effetti di scegliere questa contrizione per rimanere più vicino, anche come consiglio di San Paolo, di non andare verso il matrimonio, ma rimanere, diciamo, casto per tutto per Cristo e per la Chiesa. Quindi volevo una conferma, perché la mia guida mi aveva un attimo disorientato. Quindi come mi devo comportare? Caro Gennaro, ti ringrazio per questa domanda. Ecco, uno per dare una risposta a una domanda di questo tipo dovrebbe conoscere molto bene prima di tutto la persona, no, di chi fa la domanda, dovrei conoscerti molto bene, quindi non avendo questa possibilità non è saggio da parte mia dare una risposta, però faccio un piccolo accenno a quel brano che tu hai citato, no? Che è un brano molto particolare del Vangelo di Matteo, al capitolo 19, a un certo punto quando il tema è quello del divorzio da un lato e subito dopo quello dei bambini, quindi se vuoi la cornice del brano in questione è proprio quella del matrimonio, il matrimonio come fonte di comunione tra lo sposo e la sposa e come luogo della fecondità nei figli, in mezzo al discorso sul matrimonio a un certo punto Gesù tiene questo discorso, quando proibisce il divorzio, gli dissero i suoi discepoli, se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna non conviene sposarsi, e gli rispose loro, non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso, infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Ora, questo brano, che viene considerato come uno dei brani più certi di Gesù, sono i cosiddetti ipsissima verba Iesu, le parole sicure di Gesù, proprio perché un'espressione del genere andava del tutto controcorrente nel contesto del primo secolo, dove il celibato non era visto come qualcosa di positivo. Alcuni dicono che Gesù dica queste cose proprio perché qualcuno lo insultava per il fatto che lui non si era sposato. Gesù fa una gradazione di tre tipi e questa gradazione va dalla situazione meno grave a quella più grave. La meno grave è il fatto che vi sono eunuchi che sono nati così, quindi la natura porta qualcuno a nascere impotente e quindi questa è una situazione di cui uno non ha colpa. ci sono quelli che sono stati resi tali dagli uomini, qui c'è una forzatura esterna, come può essere il caso dell'eunuco della regina Candace, che è stato probabilmente virato per diventare colui che era poi il custode dell'harem della regina, e poi terzo grado, il più grave, ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. È un'assurdità nella mentalità del primo secolo, però Gesù qua sta dicendo che c'è in alcuni casi il dono di rinunciare alla procreazione fisica per portare un altro tipo di vita all'interno del mondo, del contesto in cui uno vive. E questo, la motivazione è quella per il regno dei cieli. Qui c'è una particella in greco, questa particella è la particella di A, che può avere un duplice sfumatura. La sfumatura finale, si sono resi eunuchi per raggiungere il regno dei cieli, per portare il regno dei cieli, per entrare nel regno dei cieli, o la sfumatura causale a motivo del regno dei cieli. E con alcuni studiosi io prediligo questa seconda sfumatura, nel senso che prima uno viene conquistato dal regno dei cieli, viene conquistato dall'amore di Dio, poi in risposta a questo amore cerca di investire tutte le sue energie, rinunciando ad altre forme di amore umano, ecco, che lo circondano. Quindi gli uomini sono così posseduti dall'amore di Dio che a un certo punto sentono il bisogno di dedicare a questo amore che supera ogni altro la propria vita, l'interezza della vita. Penso che il suggerimento che viene dal tuo padre spirituale vada proprio in questa direzione. Probabilmente lui ha visto che dentro di te c'è questa possibilità, vede che l'amore per Dio, l'amore per il regno ti possiede così tanto che sei in grado di poter donare te stesso in questo modo. Però si tratta di scelte ovviamente che hanno bisogno di un attento discernimento e soprattutto vanno fatte con calma e con pazienza, senza alcuna fretta. Quindi, caro Gennaro, oltre a ringraziarti per la tua domanda, ti auguro ogni bene per la tua scelta di vita. Grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Io sono Mi dica. Maria e parlo da Palermo. Mi dica, Maria. Sì, non si spaventi, padre, ho 97 anni. Oh, quasi, che Dio la benedica. Quasi 98. Non vedo bene, per cui non posso più leggere quasi niente, anche con questi apparecchi moderni che ci sono per questa ipovisione, non abbiamo trovato un apparecchio per me, quindi non leggo. Però non mi lamento, perché il Signore mi dà una bella forza fisica anche, e oggi, siccome sento quasi sempre la radio, non la televisione proprio non la vedo, la potrei vedere, intravedere, ma non mi interessa, e ho sentito la sua catechesi e la ringrazio tanto perché mi ha dato tanta gioia e tante cose che terrò nel mio ricordo. Veramente grazie. Pronto? Sì, ci sono, la sto ascoltando, mi dica. Ah, ecco. E soltanto questo volevo dirle. Ah, bene, ecco. Bene. Io la ringrazio di questo suo intervento che tra l'altro mi fa pensare a un'attualizzazione della parola di Dio anche qua di questa mattina. Nella prima lettura il profeta diceva che nei tempi futuri non ci sarà un giovane che non arrivi a 100 anni e anche i più anziani saranno carichi di gioia. Ora, sentire lei, signora Maria, che chiama da Palermo, 97 anni, mi dice che una catechesi che sente la riempie di gioia, ecco, vuol dire proprio che lo spirito sta passando. Quindi grazie della sua telefonata, perché sicuramente è motivo anche di incoraggiamento per altri fratelli, altre sorelle, magari un pochino meno anziani di lei, che però possono guardare il futuro con slancio e fiducia. Grazie e tanti cari auguri per la sua salute. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Sera, mi chiamo Tamara e chiamo dalla provincia di Forlì. Dunque, sì, lei forse ha risposto già in parte alla mia domanda con la prima signora, però la mia situazione è un po' diversa, cioè lei ci dice di non essere invadenti e di lasciare la risposta all'interlocutore, insomma, lei ci dice, no, lo dice Filippo, lo dice il Vangelo, io sono una catechista e i bambini mi pongono tante domande alle quali io do delle risposte, non so come comportarmi, lei mi ha messo un po' in crisi in questo modo, perché io do delle risposte anche chiare a questi bambini, non so se faccio bene oppure se faccio male. Allora, la ringrazio signora Tamara da Forlì, perché mi dà modo appunto di precisare, no, quanto ho detto in precedenza. Non è sbagliato dare delle risposte, ci mancherebbe, è bene, se vengono fatte le domande è bene dare delle risposte, però a mio avviso non dobbiamo avere la pretesa di avere sempre la risposta pronta a tutto. Vede, anche io nella seconda parte della mia trasmissione cosa faccio? Non faccio altro che rispondere ad alcune domande che mi vengono fatte. E quello che secondo me, soprattutto nell'azione della catechesi, soprattutto chi ha una responsabilità formativa, chi guida il popolo di Dio, dovrebbe avere sempre questa accortezza, è di far sì che le risposte che vengono date non siano risposte chiuse, Cioè la risposta dovrebbe lasciare sempre un margine, uno spazio di curiosità, dove la persona è spinta in un certo senso ad approfondire, a cercare, a camminare, a mettersi lui in cammino. Se pensiamo al catechismo di Pio X, il catechismo era fatto da domande e risposte. Sicuramente quante generazioni sono state formate su questo catechismo che dava delle risposte precise a delle domande enormi. Il rischio però è quando queste risposte diventano, come dire, l'unico punto di riferimento a cui io mi appiglio e poi non vado avanti, non approfondisco, non cerco quella che è la mia risposta, la risposta per me, cioè il Signore risponde, però per ognuno c'è una sfumatura diversa, perché con ognuno di noi il Signore intesse un dialogo personale. Quindi il nostro compito è quello di dare delle risposte, ma suscitare allo stesso tempo la domanda, perché ciascuno possa approfondire. Vedete, se al termine di queste puntate sugli Atti degli Apostoli chiudiamo l'ora e mezza insieme, ma nessuno di voi sente il desiderio di continuare un pochino ad approfondire la ricchezza della parola di Dio, continuare a meditarla, io ho fallito il mio compito, perché significa che non ho reso servizio a questa parola. La parola non si esaurisce con la spiegazione che io do o con le risposte che io do alle vostre domande. La parola spinge ad aprire ulteriormente il discorso. Nella tradizione ebraica, soprattutto nelle scuole, nelle yeshiva ebraiche, l'alunno più bravo non è l'alunno che risponde, è l'alunno che domanda, è l'alunno che interroga. Più domande si fanno al testo, più Dio può dialogare con la nostra vita. E allora è questo il senso. È ovvio che come catechisti, come formatori siamo chiamati a dare delle risposte, ma l'importante è che queste risposte non chiudano il discorso, ma lo aprano a nuovi orizzonti e suscitino ulteriori domande. Grazie quindi per il suo intervento. Pronto, con chi parlo? Buonasera, mi chiamo Orietta di Milano. Orietta? Senti, anche la mia, sì, è un po' una domanda sulla domanda che lei, di cui lei ha parlato. Gesù ha dato un nome, mi sembra, preciso a questo tipo di domanda. E io gliene faccio una per vedere se ho capito. Si dice che al tempo di Gesù la donna contasse molto poco. Ma come mai a lei allora ci parla di una regina? Avrà avuto un grande potere questa regina, una grande considerazione. Come la mettiamo allora che le donne non erano affatto considerate a quel tempo? Ecco, se poi lei mi può dire come Gesù chiamava quel tipo di domanda di cui lei ha parlato, forse non ho seguito bene. La ringrazio e buonasera. Grazie signora Orietta per il suo interrogativo. Allora, dobbiamo tenere presente che anche il primo secolo era un contesto, cioè il contesto del primo secolo era caratterizzato da diverse realtà sociali. Un conto è la realtà del mondo ebraico, un conto quella del mondo pagano con l'influsso romano-greco, romano-ellenistico, un conto è l'altra area ancora che era quella del Nord Africa. Ognuna di queste realtà aveva una cultura, una società, un mondo diversificato. Certamente nell'ambito, in quello che era l'ambito ebraico del primo secolo, le donne non è che eccellevano come status sociale, soprattutto in quelli che erano gli ambienti più tradizionali. Questo non significa che erano che non avevano compiti importanti, tutt'altro, all'interno della famiglia la donna aveva un ruolo molto importante, soprattutto nella trasmissione di alcuni valori ai figli. Teniamo presente che la stessa identità ebraica passa dal sangue della madre, quindi il ruolo della donna non era secondario, però non avevano compiti, se vogliamo, pubblici, di amministrazione, o perlomeno normalmente non avevano questi compiti. C'erano però le eccezioni. Alcune indagini, alcuni studi hanno ad esempio dimostrato che già verso la fine del primo secolo c'erano delle sinagoghe che pare avessero come responsabile della sinagoga una donna. Noi sappiamo che la cosa era diversa nel mondo romano-greco. Nel mondo romano-greco noi abbiamo delle città che ricevono addirittura dei nomi femminili, pensate a Tessalonica. Perché? Perché si voleva mettere al centro dell'attenzione una donna che era particolarmente importante per la sua nobiltà, per i suoi collegamenti, nessi politici o per il ruolo che aveva avuto nella storia. E lo stesso vale per altri ambienti, come poteva essere l'ambiente dell'Etiopia. L'ambiente dell'Etiopia, come a suo tempo, i tempi di Salomone, la famosa regina, la regina di Saba, che veniva a visitare Salomone per la sua sapienza, lascia emergere figure di grande rilievo del mondo femminile. Però notate, qua viene messa in evidenza la regina, non tanto per dare rilievo alla regina, ma per sottolineare il ruolo dell'eunuco. Cioè l'eunuco era un servo evirato che apparteneva a un popolo pagano e che era a servizio di una donna. Cioè, peggio di così, il messaggio indiretto è questo, peggio di così, eppure lo spirito sceglie quest'uomo per farne il portavoce dell'annuncio ai pagani, cioè è con lui che si apre l'orizzonte dell'evangelizzazione al mondo pagano. Quindi è questo il messaggio che emerge dal racconto. Se vogliamo, anche tutto il racconto lucano, dal Vangelo agli Atti, dà comunque rilievo anche a molte figure femminili che, contrariamente alla tradizione del tempo, diventano il primo veicolo del messaggio della salvezza. Se noi pensiamo anche solo alla narrazione del Vangelo lucano, notate che tutto procede per coppie: Elisabetta e Zaccaria, Giuseppe e Maria, Simeone e Anna. Poi c'è il seminatore che mette il seme nel campo, la donna che mette il lievito nella farina. È il pastore che perde la pecora, la donna che perde la dramma. Cioè, è tutta una sequenza di parallelismi, compresi i discepoli. Luca è l'unico che al capitolo 8 parla del discepolato femminile, dedicando a questo più versetti, mettendolo in parallelo con il discepolato maschile, proprio per dire che davanti a Dio queste differenze sociali non ci sono più. Avviene proprio quello che Luca dirà nella lettera ai Galati: non c'è più giudeo né greco, schiavo libero, uomo né donna, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù. Cioè Cristo supera tutto questo, ponendo davanti a Dio il cuore docile. È questo quello che cambia le sorti della storia. Ecco, poi lei mi ha posto un interrogativo sul nome della domanda, ma forse mi sono espresso male. Non è che la domanda ha un nome, quello che volevo dire è che le domande sono la porta di accesso al mistero, e proprio perché sono una porta di accesso al mistero, il mistero resta tale, e quindi la risposta che ricevono non può mai essere una risposta chiusa. Quindi sono domande che suscitano ulteriori interrogativi che favoriscono l'approfondimento. Grazie Orietta per il tuo interrogativo. Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Filippo di Roma, assicuro che è puramente casuale. Volevo dire una cosa: a me è stata fatta la grazia in questo cammino di fede che faccio di avere nel corso degli ultimi anni delle intuizioni dalla scrittura, ed è vero quello che dice lei, è sempre un punto di partenza quando uno ha un'intuizione, che intanto può condividere con altri, eccetera, ma è soprattutto vero il fatto che poi è la stessa scrittura che approfondisce. Una delle ultime è proprio quella che viene da Esodo 33, dove c'è la frase che Dio pronuncia nei confronti di Mosè quando dice: nessuno può vedere Dio e restare vivo. Questa è avvenuta durante la preparazione di una celebrazione della parola con dei fratelli. E ho pensato che questa morte di cui parla Dio, che deve avvenire per vederlo, è proprio il battesimo, che come noi sappiamo è una sepoltura, no? Simbolica del peccato, eccetera, da cui poi rinasce l'uomo, no? E questo è andato così per un po' di mesi, senza ancora, diciamo così, approfondimenti. Poi invece si è aperto un mondo anche nel Nuovo Testamento, anche in relazione appunto al fatto che Cristo anche ha detto a Giovanni: lascia che si compiano le scritture, oppure quando parla della seconda morte, no? Che dice, San Paolo dice: siamo morti per colpa di uno che è morto, tutti siamo morti, infatti il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte, e via discorrendo. Dico questo perché appunto Dio dà delle grazie di intuire qualcosa, no? E poi proprio per il cammino personale della persona, di conversione della persona, anche conferma con la scrittura stessa che è lui ad aver fatto intuire queste cose, no? E questo, e tanto è vero che questa intuizione adesso è anche si sta confrontando anche con una comunità ebraica vicino alla nostra parrocchia, dove io faccio questo cammino, che li conosciamo, così, eccetera, e così varie altre cose su cui appunto si può lavorare in questo senso. Questo fatto che Dio dice appunto: nessuno può vedere Dio e restare vivo, ho pensato che appunto potesse parlare del battesimo. Ma volevo sapere un po' anche lei che ne pensava, Don Giacomo. Grazie mille Filippo per questa tua testimonianza, questa tua condivisione con noi ascoltatori. Penso che la tua testimonianza sia preziosa per due motivi. Il primo motivo è che sottolinei giustamente una cosa: la parola di Dio è viva. E siccome la parola di Dio è viva, la parola di Dio suscita dentro di noi alcune intuizioni, soprattutto quando noi la leggiamo guidati dallo Spirito Santo. Ecco perché la prima disposizione, il primo atteggiamento da avere quando si apre la parola è sempre la presa di coscienza di essere davanti al mistero. E il modo migliore per farlo è invocare l'azione dello Spirito. In genere all'inizio anche di queste trasmissioni vi chiedo sempre di unirvi, no? Nella preghiera allo Spirito Santo, proprio perché è una parola che non ci appartiene. E quando noi ci poniamo umilmente davanti a questa parola, riconoscendo i nostri limiti e chiedendo l'assistenza dello Spirito, la parola accende le sue luci. E il nostro compito non è tanto quello di andare a scavare chissà cosa, certo abbiamo il dovere di approfondire, informarci, ma il primo dovere nostro è soprattutto quello di seguire la luce che la parola accende. Lei l'ha descritta con il termine intuizione, cioè sono queste piccole luci che emergono dentro, emergono nella testa, salgono dal cuore e che poi siamo chiamati a seguire. E da quella che è una luce sovente si sprigiona tutto un mondo, si sprigiona tutta una riflessione, tutta una riflessione. A volte le meditazioni o i ritiri più belli che mi trovo a predicare nascono proprio così, non sono quelli che ho scritto sui fogli, ben ordinati, ben precisi, con le citazioni, le note, sono quelli che nascono da un'intuizione nella preghiera che poi uno segue, sviluppa, approfondisce, ma il nucleo è lì, il nucleo è da questa intuizione che affiora. Secondo aspetto altrettanto importante della tua testimonianza, Filippo, è il fatto che tu hai parlato di un gruppo di persone con cui leggi, di alcuni fratelli con cui leggi la scrittura. Ecco, questo è preziosissimo perché nel momento in cui noi condividiamo la lettura e la meditazione della parola di Dio, la meditazione della parola di Dio si schiude i suoi doni, perché è frutto di un'esperienza di comunione. Quando noi leggiamo la parola di Dio e questa è frutto di un'esperienza di comunione, non può non essere fruttuosa. Ecco allora la bellezza, no, di questa tua esperienza. Hai citato l'espressione di Mosè, se non erro nella liturgia ambrosiana di ieri, c'era proprio l'immagine di Mosè che parla con Dio faccia a faccia, come un uomo parla con il suo amico. Quindi teniamo presente le due cose. Da un lato c'è l'espressione che dici tu, che hai evocato tu, no? Dicendo com'è possibile che una persona veda Dio e poi resti in vita, non è possibile. Dall'altro c'è l'altra espressione, sempre riferita a Mosè, dove si dice Dio parlava con lui faccia a faccia come un uomo parla al suo amico e Mosè è rimasto in vita fino alla fine. Perché c'è questa apparente contraddizione? Perché questa contraddizione ci dice che da un lato la parola di Dio è intima a noi stessi e vuole tessere con noi un rapporto profondo di amicizia, come quello che noi abbiamo con un amico. Quindi la parola di Dio ha la pretesa, non la pretesa, perché un amico non ha mai una pretesa, però ha il desiderio di diventare intima a noi stessi, ma dall'altra parte la parola di Dio è sempre misteriosa e questo mistero ci deve educare a mantenere anche un senso di distanza, distanza nel senso del rispetto, cioè io non posso aprire la parola di Dio come apro il libro di Topolino, il Vangelo non è Topolino, il Vangelo richiede una disposizione per aprirlo. E richiede anche un luogo per aprirlo, cioè un conto è meditare la parola in un clima di preghiera, in un contesto di preghiera, in cima a un monte, comunque in un clima di raccoglimento, un conto è leggerlo senza quell'accortezza, quella dedizione che mi fa capire che è parola di Dio, che è parola sacra. Quindi penso che le due espressioni aiutino un pochino a tenere presente queste dimensioni della parola. Grazie mille Filippo per la tua testimonianza. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, eccoci all'ultima domanda, mi dica. Buongiorno padre Perego, mi chiamo Piero e telefono da Torino. Lei ha parlato dei direttori spirituali, è difficile oggi trovare un direttore spirituale. Io sono anziano, quando ero giovane avevamo questi direttori spirituali che ci seguivano, però ha detto anche che il direttore spirituale ci può dare dei consigli, ma poi dobbiamo fare noi, dobbiamo cooperare noi. Mi ricordo che Sant'Agostino ha detto: colui che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te, quindi ci vuole l'impegno nostro. E in questo periodo di Quaresima, ad esempio, al mattino alle 8:30 su TV a 2000 tutte le mattine c'è la messa da Roma e quindi bisogna darci da fare. Lei ha citato di leggere le scritture, è quello che dobbiamo fare, specialmente noi anziani che siamo in pensione, siamo a casa, eccetera, non guardare solo, sono delle famiglie che la televisione è accesa per 16 ore al giorno, però ci sono alcune trasmissioni come quella che ho citato che vale la pena di sentire. Grazie. Grazie signor Piero, anche lei per il suo suggerimento, la sua testimonianza. Effettivamente è vero, no? Quello che lei dice, è importante avere una guida, però è importante anche che ognuno ci metta del suo. E torno un pochino alla pagina evangelica di oggi, no? La liturgia oggi ci poneva proprio questo incontro stupendo ed è interessante il commento che fa l'evangelista all'azione del centurione, quando a un certo punto dice, di fronte a questo ministro di Roma, dice credette alla parola del Signore e si mise in cammino, cioè non basta credere alla parola del Signore. Credere alla parola del Signore è forse, chi lo sa, forse non sarebbe stato sufficiente per constatare il miracolo avvenuto nel suo servo. Accanto alla sua fede si è manifestato nel mettersi in cammino e nessuno si poteva mettere in cammino al suo posto, è lui che ha dovuto muovere le sue gambe, quindi c'è questa necessità che tocca il coinvolgimento personale di ciascuno. Lei giustamente, signor Piero, ha dato alcuni suggerimenti su come uno si può aiutare nel mantenersi in quel clima spirituale che favorisce il discernimento. Allora la televisione che permette di seguire il commento del Santo Padre alla parola di Dio, una preghiera fatta insieme, i momenti formativi in parrocchia, la partecipazione attiva alla celebrazione della domenica, un momento di meditazione personale o comunitario attorno alla parola di Dio, i sacramenti, cioè la Chiesa ci mette a disposizione tanti, tanti strumenti. L'importante è, non camminare da soli, ma cercare di fare un cammino dove una guida, una comunità, la condivisione con altri fratelli e sorelle ci permettono di cogliere la ricchezza della parola e ciò che lo Spirito vuole da noi. Eccoci quindi alla fine della nostra trasmissione. Permettetemi di ringraziare le 7 persone, i 7 diaconi che questa sera ci hanno dato una mano nel spezzare la parola di Dio. Paola da Bracciano, Gennaro da Pozzuoli, Maria da Palermo, Tamara da Forlì, Orietta da Milano, Filippo da Roma e il nostro ultimo ascoltatore Piero da Torino. E noi ci risentiremo tra un mese, quindi faccio a ciascuno di voi l'augurio di un fecondo cammino verso la Pasqua, che il Signore dia anche a ciascuno di noi la capacità di abitare le strade deserte di oggi per trasformarle in strade feconde che aprono magari porte inattese, ma porte cariche di futuro. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.